When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on. Qua in diretta sono le 15, qui ai microfoni di Radio Wombat. Ho fatto letteralmente irruzione quest'oggi perché mi sono reso conto solo dopo che alle 15 in realtà interrompevo la replica di Slick Chick, ma tant'è, ci coordineremo meglio sicuramente per i prossimi venerdì. Infatti riprendo con oggi Coccoli al Silicio, che era un piccolo insertino che ho ottenuto da questi microfoni praticamente fino a fine maggio. Poi ho fatto una lunga pausa estiva di riflessione, credo che sia fine maggio, è passato talmente tanto tempo che non me lo ricordo neanche più in realtà. E questo vuole essere un piccolo inserto di cose informaticose, ma siccome è iniziato il nuovo anno, cioè non è vero, è solo settembre, però a settembre inizia l'anno scolastico e io che sono rimasto vecchio d'età ma giovane come un fanciullino nell'animo, quindi lo sento come l'inizio di un nuovo anno e così riprendo a fare Coccoli al Silicio con questa nuovo format. Infatti da quest'anno ho deciso che sono in diretta, prima stavo sempre a registrare trasmissioni ma era troppo difficile, finiva che non le facevo mai, invece la diretta mi costringe a essere qui a tenervi compagnia. Quindi oggi, come il nuovo primo giorno di scuola, sono arrivato alla terza elementare adesso e anzi per l'occasione mi sono messo proprio il grembiulino che avevo alle elementari, quindi immaginatemi in calzoncini corti e un grembiulino che mi fa praticamente da top, e scarpe da ginnastica, calzini bianchi, e con questa immagine molto erotica vado ad iniziare. E la prima notiziola, perché il mio inserto sarà fatto principalmente di notiziole, infatti ho estrapolato la parte su la storia della scienza che facevo l'anno scorso, ho deciso che era troppo difficile farla ogni volta, veniva una trasmissione troppo pesante che sembrava di vedere di sentire un documentario raccontato male in radio, e quindi questa parte qui ho deciso che la separo e farò dei lunghi speciali noiosissimi, che così uno, se vuole, se li ascolta, tutti sapendo cosa sta facendo, consapevole di cosa si sta collando. E invece in questo nuovo format pam pam pam, che sarà super veloce hollywoodiano, tipo Matrix, saranno solo notizie, musica, notizie, musica, notizie, musica per 25 minuti, poi chiudo. E probabilmente vi ribeccate ancora la fine di Slick Chick, che io ho veramente interrotto in maniera barbara circa a un terzo, così, perché sono un maleducato. No, perché non me ne ero accorto, me ne sono accorto solo ora. La prima cosa di cui vi volevo narrare è una cosa molto buffa che ha a che fare con la sigla di apertura di quest'oggi, che era You'll Never Walk Alone, eseguita da Gary and the Pacemakers. E non c'entra un cazzo in realtà quello che voglio dire, se non nel fatto che quelli che hanno, cioè il gruppo, si chiama The Pacemakers. Infatti la prima cosina che vi volevo raccontare oggi è questa cosa che a me ha abbastanza incuriosito, e cioè che un ente americano che io non conoscevo, che si chiama Food and Drug Administration, ha fatto delle specie di test di sicurezza su un grosso numero di pacemaker installati su corpi, quindi di pazienti americani. E ora, cosa fa il pacemaker? Il pacemaker è questo aggeggino che viene installato all'interno del cuore per controllarne sostanzialmente le contrazioni, i battiti su pazienti che hanno problemi cardiaci. Ecco, però come si fa a controllare questo oggetto che uno ti mette dentro nel 2017? E praticamente questi oggetti hanno praticamente dei piccoli computer che comunicano all'esterno con delle radiofrequenze. Ecco, loro hanno fatto dei test e hanno visto che evidentemente il protocollo che viene utilizzato per queste comunicazioni non l'avevano pensato esattamente per essere un protocollo sicuro. E quindi queste radiofrequenze sono in realtà intercettabili. Nell'articolo citano con equipaggiamento commerciale, diciamo da un minimo di 15 dollari a un massimo di 3.000. Ora, dai prezzi, io intuisco che questo equipaggiamento commerciale a cui fanno riferimento in realtà siano sostanzialmente degli oggetti che vengono utilizzati spesso nel giro Acaro per sostanzialmente studiare le radiofrequenze che sono attorno a noi. Quelli più o meno costosi costano 15 euro, alcuni sono sostanzialmente degli adattatori che si usano per prendere la TV digitale. E che però, per come sono fatti, in realtà possono gestire un range di frequenze molto più ampio, e quindi è possibile utilizzarli per fare lo scanning di un discreto numero di frequenze che non sono soltanto quelle della TV digitale. Il riferimento a 3.000 dollari è perché poi ci sono le cose fighissime, tipo l'USRP e altre fa cose fatte apposta, che sono oggetti fatti proprio per poter fare e ricevere, per poter trasmettere e ricevere segnali, sono molto ben fatte e quindi costano di più. Però sostanzialmente sono oggetti che ti puoi comprare. E cosa ci si fa? Diciamo nell'avviso di sicurezza che è stato diramato da questa Food and Drug Administration, si spiega che sarebbe possibile sostanzialmente accedere come utenti non autorizzati attraverso lo studio di questo protocollo. Quindi uno prima deve sapere che cazzo sta facendo, non è che però e quindi si potrebbe prendere il controllo sostanzialmente del pacemaker di una persona. E quindi gli si può rallentare il battito cardiaco, accelerare il battito cardiaco, fargli un sacco di cose, e questo non sembrava una cosa bella. E infatti hanno diramato questo avviso, e sostanzialmente, e questa è una cosa con un immaginario cyberpunk e un po' inquietante, sostanzialmente i pazienti che hanno questi pacemaker, che non si tratta di poca gente, perché si parla di qualche... di un buon, qui viene citato 465.000 pacemaker così a occhio, e quindi non sono poche persone, diciamo pochi oggetti coinvolti. Queste persone dovranno subire sostanzialmente un upgrade del firmware, cioè del programma di controllo che sta dentro questo computerino che è stato installato nei corpi delle persone. E per rendere, diciamo, di nuovo sicuro, diciamo, per coprire queste falle di sicurezza. E questa cosa a me mi ha abbastanza così fatto riflettere, perché è strano, no? Questa tecnologia che ti viene impiantata nel corpo e poi tu, come il tuo smartphone, devi subire l'upgrade, perché altrimenti i virus, gli hacker, i cattivi, ti possono irrompere, e in questo caso proprio irrompere dentro il corpo. E quindi nulla. Non c'è, in realtà hanno specificato gli autori di questo studio, casi accertati. Diciamo, questo non è nato da un problema, penso che qualcuno gli si è fermato il pacemaker e non è nato così, è nato da uno studio fatto su questi oggetti per testarne la sicurezza. Però è interessante che studiandone la sicurezza hanno detto no, effettivamente non funzionano da questo punto di vista a modino. E quindi con questa bella no notizia, sostanzialmente vi invito, se avete un pacemaker, a farvi controllare, controllate la vostra marca. E le marche americane, le marche citate erano tutte quante americane, e se avete un pacemaker fatto originalmente in Italia, allora tranquilli, non c'è problema. No, non è vero. Non so neanche se in Italia li facciamo i pacemaker. E a parte questo, insomma, se avete problemi di cuore, quando vi fate installare un pacemaker, anche chiedete di che marca è e accertatevi che sia senz'altro sicuro. Sì. E la seconda notiziola, invece, che vi volevo raccontare, che però è preceduta da una piccola sigla, è qualcosa di più leggero, ma riguarda sempre i virus, visto che in questi mesi ne abbiamo parlato tanto. In realtà riguarda questi virus che hanno spaventato tanto la stampa inizio estate, cioè i ransomware sostanzialmente. E questi virus sono degli oggetti che sostanzialmente vi cifrano i dati su un qualche apparecchio elettronico, un computer, un cellulare o quello che è, e poi vi chiedono sostanzialmente dei soldi per poter decifrare questi dati, altrimenti dopo X tempo li cancellano. Vi ricorderete forse la vicenda di WannaCry a inizio estate? Ecco la seconda notiziola che vi do dopo questa bellissima sigla, che ho scelto semplicemente perché è fatta da un gruppo che ho trovato completamente a caso, che si chiama Ransom Collective, quindi l'ho scelta soltanto perché si chiamano Ransom. E niente, la sigla si intitola Waterproof, è un pezzo veramente infimo, cioè non sono riuscito a affezionarmi a questo gruppo, però il nome mi sembrava a tema e quindi ora ve lo sucate. Comunque è un pezzo molto noiosamente rilassante, e quindi per un pomeriggio assolato dove è appena finito di piovere e tanta gente nel mondo ha problemi con l'acqua, l'assenza d'acqua o con troppa acqua, il pezzo waterproof mi sembrava a tema su più fronti. I forgot just what you said as the clouds formed overhead, as the water filled the sky. I could see it eat the trees by your good company. And we keep dodging hurricanes that wash up on our shores. Cause these hearts, they are waterproof and we can handle more. And nature's got a funny way of knocking on our door. And maybe if she's loud enough, we'll stop and check for sure. Soon enough, the sun comes out, piercing through the doubt that the sea would swallow me. Though floods consume the ground, our spirits can't be drowned. Oh, not in this country. We keep dodging hurricanes that wash up on our shores. Cause these hearts, they are waterproof and we can handle more. And nature's got a funny way of knocking on our door. And maybe if she's loud enough, we'll stop and check for sure. the things they say are true. Gray skies always turn blue when you're with the ones you love. Water may be to the roof, but these hearts are waterproof when you're with the ones we love. So gather with the ones you love, 'cause baby, the ocean's falling from above, and we have learned that this is only temporary, girl. Because we keep dodging hurricanes that wash up on our shores. 'Cause these hearts, they are waterproof and we can handle more. And nature's got a funny way of knocking on our door. And maybe if she's loud enough, we'll stop and check for sure. In realtà, guardando questo pezzo mentre lo facevo suonare da YouTube, ho scoperto che in realtà è un pezzo impegnato e che parta proprio dei tifoni che devastano le Filippine ogni anno. E quindi io ne ho ignominiamente parlato male. In realtà sono un gruppo che merita del rispetto, magari non dal punto di vista troppo musicale, che la musica non era proprio tanto bella, però comunque merita del rispetto, ecco. Ecco, mi devo tagliare la lingua subito, sempre che parlo troppo. E comunque il pezzo introduceva appunto questa tematica dei ransomware, ma io quello che vi volevo parlare è che è una notizia di qualche giorno fa, che in alcuni forum di hacking e anche in alcune messaggistiche, soprattutto cinesi, è apparsa la notizia che, cioè è apparso diciamo un link che ti invitava a scaricare un'app facile da usare per creare il tuo ransomware. Cioè anche se non sei un programmatore, non sai come si fa un ransomware, non c'è problema, c'è sta l'app. Dagli screenshot che si vedono qua, dove ho trovato la notizia, in realtà sembra che l'app abbia principalmente un target nei paesi asiatici, in particolare in Cina, perché sembra tutto scritto in cinese. Però magari hanno anche la versione English, non lo so, cercatevela. E comunque la cosa bellina è che appunto vi potete scaricare sul vostro cellulare Android l'apposita app, e poi con poche semplici domande, cioè sostanzialmente vi fanno scegliere la chiave da usare per lockare il device, cioè quella che poi dovrete mandare nel momento in cui ricevete i soldi, certo. Poi l'icona, perché comunque anche lo stile è lo stile, cioè l'icona del malware, quella che appare poi sul telefonino, e questa in realtà è importante perché poi uno ci deve cliccare sopra, quindi se mettete un'icona accattivante è più probabile che poi uno se la installa davvero l'app. E poi ci sono alcune diciamo operazioni matematiche da scegliere tra quelle che si usano per cifrare il disco, potete scegliere anche se non sapete cosa state facendo, ci sarà una senz'altro consigliata. E poi il tipo di animazione da visualizzare sul device, perché anche quello è un tocco di stile se lo fate. E dopodiché premete create e vi ritrovate la vostra app bella e pronta. Non è proprio tutto così, nel senso che dovete pure pagare a un certo punto poi per avere l'app davvero, mi sembra di capire qua, cioè nel senso che a un certo punto anche voi dovete dare dei soldi. E comunque è una cosa interessante, nel senso che l'articolo chiude, quindi aspettiamoci che aumentino i ransomware sul mobile, quindi fatti solo per i cellulari, dal momento che è stato prodotto un tool così semplice da usare. Non è però una notizia nuova questa qua dei tool per creare i ransomware. Infatti già nel 2015 ho ritrovato una notizia che mi ricordavo di aver letto, ora me la sono ricercata, che era uscito un programma che si chiama Tox, che sostanzialmente ti guidava alla creazione, questo era un programma completamente free, ti guidava alla creazione del tuo ransomware. E poi qualcuno diciamo, installava il tuo ransomware e tu gli cifravi i dati e lui ti dava dei soldi, quello che succedeva è che era fatto tutto quanto perché il 20% se lo prendesse questa organizzazione Tox e il resto veniva a te, quindi onesto. Cioè, nel senso, non è 33, però è comunque 20 a loro, l'80 a te, molto conveniente. Ecco, sì, molto conveniente. E la prossima notiziola, invece, riguarda il mondo della pirateria in toto, nel senso che parleremo un pochino della pirateria informatica, parlando del processo di The Pirate Bay, che ci ha avuto un aggiornamento, velocemente vi spiego anche magari che cos'è poi The Pirate Bay, e poi invece parleremo di Radio Pirata, e poi andiamo decisamente a concludere l'inserto, perché vuole essere un inserto, se poi parlo due ore non è più un inserto. Quindi vi introduco al mondo della pirateria con questo pezzo che viene proprio dallo schifo degli anni 70, beh, sono i Sex Pistols, però è sostanzialmente un pezzo che anche qui dovreste ricordarvi forse il film The Rock and Roll Swindle, mi sembra quello dei Sex Pistols, che iniziava con questo cartoon di loro su una nave dei pirati che cantavano Friggin' in the Riggin', che poi in realtà io ho imparato a conoscere questo pezzo, ve lo devo dire, in realtà per la cover degli Anthrax e non per quel pezzo, perché vi faccio sentire quello dei Sex Pistols. Alright, scurvies, listen to this thing. It was on the good ship made, as by Christ you should have seen, as the figurehead was a whore in bed and a monster of Edmund Queen, as the captain of this lark, he was a dirty bug, he wasn't fit to shovel shit from one place to another. Friggin' in the riggin', friggin' in the riggin', friggin' in the riggin', it was fuck all us to do. Captain's name was Morgan, by Christ he had a gorgon, 10 times a day sweet tunes his play on his fucking organ. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a trooper, he jerked and jerked until he worked himself into a stupor. Friggin' in the riggin', friggin' in the riggin', friggin' in the riggin', there was fuck all us to do. Hold on, give us some skin. Bring it in the race, bring it in the race, bring it in the race. eccomi, nel frattempo mi hanno in realtà chiamato dei fedeli ascoltatori di Radio Wombat per segnalarmi che in realtà io non ho interrotto Slick Chick la replica, ma sta andando in onda, dal che presumo che vi sia qualche problema con i nostri computer qua in regia, per cui in realtà io, anche se avevo il buon proposito di non registrare quest'anno ma fare la diretta, di fatto sto registrando e quindi ve l'ascolterete quando finisco e la metto su. Così va, perché è il primo giorno di scuola, ci sono per forza gli incidenti. Ora torniamo a parlare di pirateria e in particolare del processo di The Pirate Bay. Se non sapete, non conoscete la vicenda perché siete dei giovanotti o delle giovanotte, cioè insomma siete troppo giovani, maledetti, forse non vi ricordate che nel 2003 è stato fondato questo sito che era diventato molto famoso perché permetteva sostanzialmente di scaricare torrent con materiale vario, possiamo ben definirlo come la qualunque. Cioè c'era qualsiasi cosa, come qualsiasi cosa si trova comunque su internet con i vari sistemi di file sharing, eccetera. The Pirate Bay era solo quello più comodo, diciamo, da usare perché aveva una comoda interfaccia che ti permetteva di fare le ricerche ed era, boh, si era saputo, diciamo, spingere bene. Dopodiché le multinazionali varie avevano deciso che volevano dare una punizione esemplare a questi pericolosissimi violatori del copyright e quindi li hanno coinvolti in un processo che li ha tenuti impegnati ancora per anni e anni, ancora oggi, visto la notizia che ora vi sto a leggere, e sostanzialmente hanno provato, diciamo, a dare una stretta alla diffusione di contenuti online, colpendo quello che sembrava essere un buon esempio, una di quelle operazioni che anche da un punto di vista poi mediatico, riportano l'ordine e la disciplina sul web. Sappiamo che così non è stato, nel senso che The Pirate Bay in realtà in qualche forma esiste ancora, cioè voi cercate The Pirate Bay, c'è thepiratebay.org che non è gestito dalle stesse persone, comunque ci sono mille altri siti, lo stesso ISOHunt che era un altro sito che diciamo che permetteva di scaricare torrent, quando The Pirate Bay ha chiuso e ha pubblicato il proprio database online, l'hanno preso e l'hanno inserito nel proprio. Quindi sostanzialmente da un punto di vista strettamente operativo l'operazione non è stata il massimo. Non è stata al massimo anche perché, sebbene gli siano state committate ai tre poveracci di The Pirate Bay delle multe molto molto molto salate, effettivamente finora loro non hanno pagato ancora niente, cioè nel senso che l'ultima multa che è arrivata l'altro giorno a due dei fondatori è di 470.800 dollari, così è, e di fatto non si sa se verrà pagata perché diciamo, finora il comportamento diciamo, dei fondatori è sempre stato quello di dire no, non si paga, anzi, mi sa che hanno fatto anche delle cause per diffamazione ad alcune delle multinazionali che gli avevano intentato causa, che sono un po' quelle grosse, comunque la Sony, la Universal, la Warner Music, insomma questi grossi colossi. Quindi nulla, è interessante magari seguire come vanno anche queste vicende, sebbene diciamo, la diffusione di saperi e conoscenze online ha continuato comunque cioè il suo corso, indipendentemente dai grossi attori, anche i grossi attori come The Pirate Bay, nel senso che i sistemi di file sharing, anche quelli diciamo quelli più meglio celati, no? Quelli più ad invito, così continuano ad esistere, ma anche quelli pubblici è molto semplice scaricarsi un sacco di file, lo fa anche il mio babbo che ha, penso, del 44, quindi sì, cioè ha già un'età, e lui scarica molte più cose di me, ora non per infamare mio babbo, però era per chiarire l'assurdità del problema, cioè nel senso che nel 2017 noi ancora stiamo col diritto d'autore e copyright, no? Cioè come se no, il frutto di tutto quello che c'è adesso non fosse, diciamo, non raccogliesse 4.000 anni di storia dell'umanità. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pagare le royalty all'inventore della ruota? Non lo so, dite me lo voi. La seconda notiziola invece non parla di pirati nel senso di violatori del copyright, che, chi, cioè, boh, che è cosa buona e giusta, ma parla invece di radio pirata. E in realtà vi invito in questo senso ad ascoltare delle robe che, in particolare un'intervista, ve lo segnalo più che altro per l'intervista introduttiva, ad Andrea Bornino, che è Radio Ciroma, che è una radio romana, presumo, io non l'ho mai ascoltata, ma ora la conosco, che ha un'emittenza in FM, e sostanzialmente ha fatto un'intervista appunto ad Andrea Bornino, che è un radioamatore ed è anche un conduttore radiofonico della rubrica Interferenze per la trasmissione Radio 3 Mondo. E quindi forse qualche mattina, se ascoltate Radio 3, ve lo siete sentita. È anche l'autore di un libro che è uscito tanti, tanti anni fa, ma è stato ora ristampato, che si intitola Radio Pirata, che racconta sostanzialmente delle prime radio libere che trasmettevano in maniera illegale dai mari del nord Europa. Infatti la storia della radio, soprattutto in FM, è sostanzialmente una storia di un monopolio strappato agli stati, poi strappato per fare emittenti commerciali, quindi purtroppo diciamo, un'occasione buttata un po' nel cesso. Se vogliamo guardare all'Italia, diciamo, immaginatevi il panorama delle radio libere, proprio immaginatevelo e basta, perché non è rimasto niente di quella roba, cioè è rimasta pochissima roba. Immaginatevi, il panorama delle radio libere come poteva essere prima della legge Mammì, quindi negli anni 70, come un humus culturale molto fertile che poi ha dato vita ad alcune emittenti che ancora esistono, poche hanno conservato lo spirito originario. Comunque, si trattava di un tipo di emittenza molto diversa dall'attuale, dove sostanzialmente bastava attrezzarsi, imparare tecnicamente, e questa parte è già molto interessante, perché imparare tecnicamente è una roba no, non banale, ecco, no? Cioè, significa che poi tu hai acquisito delle conoscenze che comunque non sono delle conoscenze banali, poi sei in grado di attrezzarti per trasmettere, trasmettevi a bassissima potenza, ma trasmettevi. La scelta poi successiva in Italia è stata quella sostanzialmente di fotografare il panorama delle radio libere, scremarle, mantenere le radio commerciali e sostanzialmente aprire però a un tipo di sviluppo che premia i grossi network. Attualmente l'FM in Italia è intasata e rispetto ad esempio ad altre situazioni europee, siamo messi da schifo, nel senso che mentre, che ne so, nel nord Europa esiste spazio ed esistono leggi addirittura per l'emittenza diciamo, a bassa potenza, no? Che magari permette di lo sviluppo di radio comunitarie, radio di quartiere, cose simili, in una relativa libertà, cioè in una burocrazia che non sia pressante, non sia cioè, oppressiva e non sia tagliagambe. E non sia neanche una roba economicamente dispendiosa come lo è in Italia, cioè in Italia ormai non si trovano frequenze in FM, non è possibile fare nuove radio, è possibile soltanto rilevarne qualcuna se c'è il culo che muore e gli compri la frequenza, pagandola centinaia di migliaia d'euro. E quindi questa è una roba che necessariamente sega le gambe, non apre certamente a un utilizzo pubblico e sociale della radio. Ecco, questa, diciamo, questo per farvi il panorama, ora mi inalbero un po' io sulla questione della radio FM in Italia. E quello che vi volevo in realtà presentare era una serie di trasmissioni chiamate speleoradio, messe appunto in onda da questa radio romana e introdotte da diciamo, da un'intervista con appunto Andrea Bornino. L'intervista è scaricabile dal sito, ve lo cercate Speleoradio e Radio Ciroma su il vostro motore di ricerca preferito e sicuramente la trovate. Comunque loro cosa fanno? Anche la notte trasmettono diciamo il palinsesto originale tratto da quelle emittenze. Quindi da Radio Valentine, Radio Caroline e altre storiche radio che hanno fatto appunto la storia della radiofonia in FM e trasmettono dei pezzi tratti dai loro palinsesti come programmazione notturna loro in omaggio appunto a queste radio. Diciamo, a me piaceva concludere questo primo inserto diciamo di Coccoli al Silicio con questa notizia, visto che comunque esiste in Italia e Radio Wombat si fregia di farne parte, cioè c'è prova insomma, un nutrito gruppo di persone che vorrebbero che sostanzialmente le onde medie, che sono un altro tipo di emittenza broadcasting, cioè quella che trovate con scritto AM sostanzialmente sulla vostra autoradio o sulla vostra radio, che da un paio d'anni è sostanzialmente scaduto il monopolio che aveva la RAI per l'utilizzo di quel particolare tipo di frequenze. Ecco, da questo liberarsi sostanzialmente di un monopolio un po' pesante, oppressivo e assurdo e anche un po' insensato, si sviluppa, fosse utilizzato questo spazio che si libera appunto per fare quello che non è stato fatto con l'FM, cioè dare la possibilità a piccole radio, piccole strutture che magari autocostruiscono anche le proprie attrezzature, no? Quindi che hanno anche un interesse tecnico nell'autogestire, nell'autocostruirsi la radio, e gli venisse permesso l'utilizzo di queste frequenze, non si facesse invece un pastrocchio modello legge Mammì, cosa che in realtà sta abbastanza avvenendo nel silenzio generale, ma perché effettivamente non è una roba che interessa di più, non interessa un cazzo probabilmente manco al governo, anzi se la subiscono abbastanza questa cosa di dover fare l'assegnazione delle onde medie. E quindi sostanzialmente però quello che sta accadendo è che si sta riproponendo un'ottica di questo tipo, cioè nei bandi di assegnazione per queste frequenze di fatto vengono valutati dei criteri che sono essenzialmente se hai un bel business plan, se sei in grado di creare un progetto che sia economicamente convincente, e questo qua taglia per forza le gambe a, che ne so, le emittenti universitarie, alle emittenti che magari sono autogestite e non hanno un cazzo di soldi e quindi il loro business plan farà schifo quest'anno, schifo il prossimo e schifo anche quello dopo, come Radio Wombat tra l'altro, e quindi nulla, vi volevo sottolineare appunto questa iniziativa di questa radio romana, e comunque più che altro vi volevo invitare ad approfondire il tema delle radio pirata, perché è una cosa di cui secondo me parleremo spesso da questi microfoni. E con questo vado allegramente a concludere questa puntata, che non ho capito se sono riuscito a mandare in streaming in diretta oppure se la sto registrando e quindi l'ascolterete quando io finisco, e con buona pace del mio buon proposito di fare le dirette, però tant'è, e vi saluto tutti, vi rimando alla prossima settimana. La prossima settimana probabilmente farò la puntata dedicata a un'iniziativa che è in programma a Napoli per il 5, 6 e 7 ottobre, che si chiama Nakit, ed è sostanzialmente un incontro autogestito di hacker del giro di Hack Meeting, che è una cosa di cui abbiamo parlato diffusamente da questi microfoni, e la prossima settimana dovrei riuscire a intervistare alcuni degli organizzatori di questo incontro, e quindi parleremo diffusamente probabilmente tutti la mezz'oretta della puntata di questo argomento. Per oggi vi saluto dai microfoni di Radio Wombat e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.